Vedi, questo rumore qua della penna lo faceva impazzire il mio professore di latino, John Geli Derungs. John Geli nome, Derungs cognome, romancio. Lo faceva impazzire. E lui gli spiegava, e tu te lo stavi ascoltando e facevi... Beh, lui attraversava l'aula e veniva davanti al tuo banco e ti dava una sberla. Bitte, bitte. E tu lo guardavi e facevi... manda e facciamo... Puoi fare un overdub, no? De non sposare rosse chese, tutte salta fosse chese, tutte salta fosse. Me mare mega ditto de non sposare rosse chese, tutte salta fosse. A l'amor non le sa far. Era partenza di Chiedo Asilo, no? Parte il trenino. Sul binario 7, in partenza Chiedo Asilo. Halloween, Halloween, che ci frega di Halloween? Siamo italiani, quindi cattolici romani. Halloween, amen, Halloween, che ci frega? Vubis. Eh? Che paura. Paura, eh? C'è anche lo stomaco mio che gorgoglia, drago. È inutile che ti tocchi. Cosa ti tocchi? Gesti, come si chiamano? Prapotopropeichi. Eh? Atopropeichi, protopapeichi. Ti stai toccando le balle, cosa dici? Cappa, se stai così però è impossibile. Ecco, ho mal di schiena. Vabbè, ma stai così a 90 gradi. Allora? Uno potrebbe appoggiarti un piatto. Appoggiarti? Un bicchiere sulla schiena. Sposta il microfono perché così non si sente niente, vedi? Devo stare dritto perché si senta. Tutto dai, bene? Sigla, va? Sigla. Canta, no? Ti sto facendo il ritmo. È il presigla, Pio, dai. Pio. Quanto ci manchi? La nostra terapia. Ma ti sembra un freestyle, un rap? È una roba latinoamericana. È una ritmica. Tipo, oio come va? È una base, no? No, vabbè, una base. Ma i bambini sono così, non sanno che ci sono altri. Pio, dove va? Ritorna, ti prego, torna qua. Se ne andiamo in sbattimento. Pio, torna qua. E qui... Beh. Vabbè, ma dai. Beh, fine, anche a tutte le basi c'è sempre il problema di base, ecco. Cambi genere. Sì, va. Vai dal freestyling. Il problema di base, sai qual è? Al sudamericano c'è sempre qualcuno che la base è meglio che va a fare base. La sigla. E tu. I don't like non la sai. Mondays. Vabbè, più o meno più così, meno. No? Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Cappa. Un saluto da Drago. Che bello, Drago, è praticamente Capodanno. Lo so, cioè Capodanno, io sono già... cosa fai a Capodanno? Faccio scoppiare delle bombe. Vabbè, ma mi che sono banalità. Come? Come? Dove? Io faccio giro per la città? No, io vado sul lago di Garda. Proprio c'è un poligono di tiro dove ci troviamo io e altri amanti delle esplosioni. E praticamente facciamo esplodere delle macchine rubate. Sì, beh, le rubano. Non so, arrivano lì delle macchine rubate senza targa. Sì. Riempiamo i serbatoi di benzina, ma anche di liquido esplosivo, tipo nitroglicerina liquida, certo, cose così. Sì. Poi tiriamo una miccia lunga, ci allontaniamo, le facciamo scoppiare e poi andiamo a letto. È bellissimo. Fanno un botto, chiamano i pompieri, tutto, però noi siamo già a letto, capito? Siamo così. Ti piace come idea? E ora, bambini, ricreazione! Uè, bambino Alberto, vieni qui, dai, dobbiamo fare l'intervista, cerchiamo di non perdere tempo. Oh, fa ancora! Sì, qui c'è il simpaticissimo Drago. Eccomi che ti qui. Deve fare domande senza le cui risposte non potremo mai più dormire tranquilli. La Madonna! Era ironico, molto ironico. Cos'è? Cosa? Ironico. Ma no, niente. Allora, bambino Albertino, a casa vostra avrete delle automobili, vero? Quindi abbiamo due Skoda. No, due Skoda. Skoda. Ma sono due? Due Skoda, no? Vabbè. No, vabbè. E avete l'adesivo bebè a bordo? Ma no, ma non ce l'hanno mica, scusa, lui è grande. Non avete fratellini piccoli, niente? Ma no, spero di no, che non ne arrivano altri. E l'adesivo di P come principiante? Perché anche quello è interessante. No, saranno troppo piccoli per guidare. E principianti non ce n'è. Allora niente, no. Però abbiamo il pass per parcheggiare nei posti riservati ai portatori di handicap, E l'adesivo con la carrozzella? Sì, sì, certo. E di quello lì ne abbiamo due? No, come due? Uno per macchina. E come mai avete quell'adesivo, scusa? Non lo so, però ce l'abbiamo. Ma scusa, siete mica disabili voi, no? Beh. No, sì. No, non sei disabile, cioè a parte certe. No! E allora sono falsi pass. Falsi! Sono dei duplicati, no? Ma duplicati da cosa? Non lo so, quelli sono i miei genitori che li fanno, Ma come? Tutti progressisti così e poi fanno i pass falsi. Sì, infatti loro è una vita che si battono per il problema dei parcheggi in città. Ah, pure. Quindi, a furia di darci dentro, no? Di preoccuparsi, alla fine il problema loro l'hanno risolto, per loro due. Col pass falso. Siamo in Italia, no? Che poi o fai così o passi tutta la vita a cercare parcheggio. No, però io non ci credo. No, io credo che due cittadini esemplari come i genitori di Alberto non possono scendere così in basso da usare un finto pass per gli handicappati. Dai. Perché? Alberto, magari ogni tanto quella macchina la parcheggia pure il tuo vecchio nonno malandato, no? No, il vecchio nonno malandato l'ho già parcheggiato, In che senso? È parcheggiato all'ospizio. E lì ha una canetta in bocca, Cosa? E lì, lui è vecchissimo, Avrà 60 anni. Vecchissimo, 60 anni. No, ma 60 anni, Vabbè. 60 anni, è vecchissimo. Vabbè. Si vede che risulta invece ancora a carico dei tuoi, che così hanno il parcheggio assicurato, sennò i pass sono falsi, scusa. Così non va bene lo stesso. Comunque dice bene il bambino Alberto. Cosa? In Italia funziona così, Vabbè, ma io non sono d'accordo. Ma scusa Alberto, devi dire assolutamente ai tuoi genitori di comportarsi civilmente e di togliere subito quegli adesivi. Ma vai tu a dirglielo, Che sono così fieri del loro adesivo. Come dovresti fieri? Vederli. Ma come? Fieri dell'adesivo. Ma sì, sono così pigri che senza l'adesivo la macchina non lo userebbero più, solo per la paura di non trovare parcheggio. Vabbè, ma prima o poi li beccheranno e sai che multa. Ma no, ma non portare sfiga, Drago, ma scusami, Finché io mi presto al loro gioco, loro sono a posto. Ma come? Quale gioco? Che faccio finta di essere paralitico. Ma chi? Ma non ho capito, chi? Io. Tu. Ho la mia carrozzina del bagagliaio. Ma no, ma. E mio padre, tutte le volte che arriviamo e parcheggiamo, prende la carrozzina. Prende me in braccio, mi mette sulla carrozzina. Ma pesi un quintale, e scende. Ma come fa? E poi tutta la gente si ferma a guardare, E pensano: poveretti, questi qui, che disgrazia, un bambino, un figlio paralitico. E invece non è vero, no, mica vero, Non è vero. A volte mi fanno anche chiedere l'elemosina all'angolo della strada. No, ma come? Ma bambino Alberto è geniale. E sulla carrozzina, già che ci sei. Però è successo solo una volta. Vabbè, io sono allibito, non ho parole. Ma no, dai, scusa, se fai le cose, falle per bene. Ma in che senso? Non basta mica mettere solo l'adesivo, devi montare su tutto l'ambaradan, carrozzina, tiri su un quintale di bambino Alberto e via. Comunque una truffa. Però troviamo sempre parcheggio. Vedi? E qualche monetina ogni tanto mi fa che comodo. No, dai, adesso. Adesso, se non vi dispiace, un paio di euro? No, questa volta mi servirebbero proprio. No, ma io non ci ho, forse il Drago. No, assolutamente. Dai, anche senza carrozzina, dai. Forza, anche tu. Libera il paracarro che è dentro di te e cammina fiero e impassibile. Segni il limite, fermo lì. Stanco di una vita al margine, col sole e con la grande. seduta sul baracarro? E non c'entra. Il paracarro c'entra. Ma la contessa no. Arrivando, Drago. Cosa? Il capodanno sta arrivando. Ma secondo te Don Ciaccastoro ci sta registrando? Allora possiamo andare avanti, Drago. Dovrebbe esserci tipo una luce che ci dice. Ma qui siamo alla fine o all'inizio della puntata? Non si capisce con tutti questi flashback. Flash forward. Sembra di essere in Lost, no? Che devi. Te lo ricordi, Lost? Sì, che c'è sempre qualcosa che c'entra ma non c'entra, però forse c'entra. C'entra. E allora tu capisci forse, ma capisci quella cosa sbagliata, perché vogliono farti capire. Ma adesso dove siamo? Dove siamo? È tutto buio qua. Ehi, c'è qualcuno? Guido? Scotty? Carmelo? Aspetta, guarda, c'è una lucina là in fondo. Là in fondo al tunnel. Ma c'è un tunnel e una luce. Ma allora, forse Drago, anche noi, cioè, soprattutto tu, cosa? Come succede a molti. No, aspetta. Come no, è successo a Michael Jackson, non so. Succederà presto anche a te. Anche Drago è morto. Drago, eri così nasuto, eri così sopraccigliuto, eri così piemontese che sbagliavi le vocali, però in fondo io con te ci stavo bene, Drago. Dove sei finito, Drago? Perché anche tu sei è morto, che non funziona neanche come sintassi. Oh,